la tua storia lascia un po' a desiderare. Fermo tassi, guastarti la serata, no, non è chic. Confidarmi col tassista mi diverte molto di più. Mi lasci pure all'angolo e diamoci del tu. La vita è bella, ciao. Merci beaucoup. Reggi calze campionari di tappezzeria. Lì c'è un manichino che somiglia a te. Sfoggia un taglierino giallo senape. Non vederti più, farci una risata su. Non vederti più, già dimenticata pure tu. Stotti giapponesi mi travolge, me e la mia ver, e sparisce fra le fauci di un hotel. L'ottimismo ricomincia a pilotarmi per la città, un'insegna verde menta mi promette un whisky bar, un jukebox sussurra wash you where you are. Senza te faccio il milionario, mi destreggio uno sgabello come Fred Astaire, ordino una Guinness per la prima manche. Forse sono triste ma il mio cuore non lo sa. Non vederti più, farci una risata su. Non vederti più, già dimenticata pure tu. Molto Giulio, così bello al sax stasera. Ho rubato la batteria. Al basso. Forte tastiere. Alla fine quasi tutti sanno tutto, sempre così, conviene alzare i tacchi, via di qui. Pago il conto ed esco fuori per la strada, merci beaucoup, un'orchestra di gatti sta provando l'overture. La mia stella da spettacolo lassù. E merci beaucoup. Merci beaucoup.